Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Dimmi come stai, cosa fai, come ti muovi e ti dirò che cosa fare per non rischiare. E se già sei inguaiato, resta comunque sintonizzato. Che mi succede oggi? Trovo anche la rima per essere della vostra salute, la beniamina. Buongiorno da Nicoletta Carbone e benvenuti. Siamo pronti, abbiamo Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. 800 24 00 24. Aiuto dottore, sono tutto rotto, collo, spalle, schiena, ma a dirla tutta ci si mette anche il braccio, sarà mica il gomito del tennista. Oggi cari amici parliamo di tutti quei piccoli acciacchi che possono interessare muscoli e articolazioni. Sappiamo che possono essere molto fastidiosi, a volte a provocarli un movimento azzardato, uno sforzo esagerato, in altri casi però, lo sappiamo, si presentano un po' come un fulmine a ciel sereno, senza una causa apparente. Come liberarsene? Come evitare che si ripresentino? Questa è la sfida di oggi e la affronteremo insieme al dottor Riccardo Minola, responsabile dell'unità operativa di ortopedia all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Dottore, allora, se si desse retta a tutti quei dolorini che ci accompagnano al mattino quando ci alziamo e forse non ci lasciano nemmeno alla sera quando andiamo a letto, si farebbe notte per l'appunto. Allora io a lei chiederei di darci un po' una panoramica, lei che li conosce tutti, almeno per sentito raccontare. Anche per vissuto personale, quindi. Buongiorno a tutti. Partiamo dall'osservazione che all'inizio siamo noi che facciamo le nostre abitudini, nel tempo sono le abitudini che fanno noi. E nell'affrontare il lavoro quotidiano è importante che la persona che si rivolge a noi abbia ben presente qual è il contesto in cui vive e quelle che sono le sue abitudini. E da qui abbiamo cercato di individuare il tallone di Achille nella vita di ciascuno. Ciascuno ha il proprio, è vero, il proprio tallone d'Achille. Per alcuni sarà la cervicale, per altri il braccio, per altri ancora la schiena. Allora io riprenderei il nostro dimmi come stai, come ti muovi e cosa fai e cercherei di individuare dei profili. Ma questi profili li ascoltiamo insieme ad Anna Maria Cova, che è in studio con me. Io sono davvero contenta, però essendo lei fisioterapista e fondatrice della Covatec Pilates School, devo dire che mi sento un po' ingessata perché voglio fare bella figura. Allora ho le spalle aperte. Come sto, Anna Maria? Bellissima. No, adesso c'ho anche il tacco di cui parleremo. Va benissimo. Però non sono ingobbita, almeno fino a quando tu sei qua e mi guardi, poi ritorno un po' insaccata. Abbiamo preparato dei profili. Voi li state a sentire, cercate di riconoscervi. Andiamo. Toro seduto. Passa molte ore alla scrivania, incurante del modo in cui si siede. La schiena è incurvata quando non si stravacca sul tavolo di lavoro. Se telefona, ama tenere la cornetta schiacciata tra spalle e orecchio per avere la mano libera e prendere appunti. Alla sera, ama spiaggiarsi in poltrona davanti alla TV. Candidato ideale al mal di schiena. 12 centimetri sopra il cielo. Senza tacco alto non va da nessuna parte e magari è comunque alta 1,80. È da sempre convinta che per apparire bisogna soffrire e il suo corpo, per non smentire questa regola, spesso fa strani scricchioli mentre lei soffoca urletti di dolore. Sempre al volante. Se si chiama Guido, il suo destino era scritto nel nome, altrimenti rimane un unico dato di fatto. Sta quasi sempre seduto, anche se è in movimento. E la sua schiena sembra decisamente non gradire. Tasto dipendente. Un tempo sarebbe stato un pianista di professione. Oggi semplicemente è un digitatore tecnologico. Schiaccia, preme, ticchetta su qualsiasi superficie dotata di tasti e improvvisamente scopre che il suo braccio non ne può più. Avete un numero, 800 24 00 24, sfruttatelo e nell'attesa delle vostre chiamate noi ci affidiamo alle mani esperte, alla competenza dei nostri ospiti. Dottor Minola, si rivolga subito a Toro Seduto per metterlo in guardia. Bene, a chi si identifica in questo stile di vita? Il primo richiamo è a come respira. Noi non prestiamo attenzione alla respirazione e se noi ci accorgiamo, chi è seduto in questo momento, chiuda un attimino gli occhi e pensi a come respira. Il suo approccio cambierà immediatamente e vedrà che guarderà più davanti a lui, la sua schiena si rilassa, si defatica e troverà, è l'altra cosa che raccomando, è trovare una posizione in cui è piacevole per se stessi e per gli altri guardarsi. Il rischio di toro seduto può essere il mal di schiena, ma non solo. Non solo. Non vogliamo fare gli uccelli del malaugurio, eh? Vogliamo solo individuare e spiegare il perché può avere quel tallone d'Achille. Può avere quel tallone d'Achille. Allora, dipende qual è il tallone d'Achille. Ad esempio, prestare attenzione all'altezza della sedia, all'altezza media delle sedie in Italia fra i 42 e i 45 centimetri. Qualche volta è importante avere quelle sedie che si possono alzare, questo rilassa molto le ginocchia. E poi avere la possibilità nella sedia di sporgersi un po' in avanti, imitando un po' quelle sedute svedesi con l'appoggio alle ginocchia, perché richiamano la muscolatura. E per spezzare il ritmo di stare seduti, alzarsi e camminare, soprattutto fare un po' di scale per riattivare la muscolatura glutea. È in quello che noi facciamo che destiniamo il nostro benessere e il nostro malessere. E allora noi ci affidiamo ad Anna Maria Cova perché vogliamo subito un esercizio per il toro seduto. Mi sono già non messa. Non posso dire mucca spiaggiata. Mi sono già messa nei panni di toro seduto. Vedo che mi stai ascoltando. Ok, cominciamo a sentire gli appoggi. Sotto alla sedia ci sono le zampette, ok, ma tu sei seduto su questa sedia. Sentiamo gli ischi. Che cosa sono gli ischi? Gli inglesi li chiamano the seat bones, è molto più interessante. Sono le ossa della seduta. Vale a cercare. Oscilliamo a destra e a sinistra per sentire quelle ossa. Individuate. Ok. Raddrizziamo la colonna vertebrale, insomma, attaccati al bacino c'è una colonna vertebrale che pian pianino devo portare in autoallungamento. Che cosa faccio? Mi porto un pochino con l'appoggio indietro, perché se sono accasciato dovrò portarmi indietro se sono accasciato in avanti e in avanti se sono accasciato indietro. Adesso vi do una bella visualizzazione che mi piace per far capire meglio come sentire questo respiro. Immaginatevi di essere davanti di dietro. Cosa vuol dire? Avete il viso dietro. Immaginate comunque e quindi di guardare dietro di voi e allungatevi. E intanto sentite che il respiro questa volta arriva da dietro. Gli organi interni si porteranno contro la pancia. Perché? Perché avete tutto dietro. Inspirate profondamente, mettete le mani dietro la gabbia toracica per sentire che il respiro arrivi da quello che in realtà è tutto davanti di dietro. È un'immaginazione che di quest'ora del mattino vi mancava. Però cominceremo a lavorare su questo via via per tutti i vari tipi di profilo. Siamo partiti dal respiro, dal viso che è dietro, dall'autoallungamento e dall'appoggio sugli ischi. Vuole. E respirate. Magnifico. Io vedo anche Roberto Scaltritti e Laura Vanossi che sono lì che cercano queste ossetta, no? Queste piccole ossa che abbiamo nascoste tante volte un po' dalla ciccia, eh? Certo. Non bisogna avere la chiappa tanto morbida, Anna Maria. No, più che bisogna altro cercarle, perché tante usare, volte sono nascoste. Bisogna usare anche prendere in mano il gluteo, spostarlo in fuori, spostare l'altro come aprire un nuovo il tegamino. A quel punto si sentiranno le ossa. Quindi un consiglio per chi ha la chiappa morbida. Adesso ci occupiamo di 12 centimetri sopra il cielo. Dottor Minola, tacchi. Tacchi. I tacchi sono affascinanti e donano una bellissima camminata. E la camminata però deve essere sostenuta da una muscolatura attiva. Anche qui la prima attenzione che noi non poniamo mai e che è molto importante per la schiena è dove va il peso del nostro corpo. Una delle cose fondamentali quando si sta in piedi, e vale per gli uomini come per le donne, è spostare il peso sui talloni. Magicamente si ricentra il corpo. Sembra un esercizio banale, è una cosa che io faccio quando sono al supermercato. Ci sono dei momenti della vita in cui uno non sa che cosa fare, invece sono pieni delle cose da fare. L'ascensore, sposta il peso, vedi dove sei e guardi anche in faccia l'altra persona, che ti cambia l'approccio. Quindi nella camminata famosa dei 12 centimetri, può essere una camminata portata con eleganza e quindi diventa un'abilità e quindi diventa un esercizio impositivo, oppure qualche cosa che si subisce va abbinata anche alla borsa. Oggi l'uso delle borse pesanti sbilancia un po'. Guardare anche i terreni dove si cammina, c'è cioè quel bellissimo film americano che ricorda come le donne che vivono a New York in metro non portano i tacchi, perché essendoci le gabbiettine che rompono i tacchi usano le scarpe da ginnastica. Quindi la scarpa che ti slancia ti serve, ma pensa a dove va il tuo peso. Questo è l'aspetto fondamentale. Anche quando si acquistano le scarpe, prestare attenzione di non prenderle in negozi dove c'è un appoggio molto morbido, perché non riesci a percepire dove ti mette il peso. Questo è fondamentale, vale per tutte le calzature, il senso dove ti viene messo il peso. Questo poi spiega oggi la tendenza alla modifica della pianta in molte scarpe. Perché? Perché, e poi ce lo spiegherà benissimo Anna Maria, che ha fatto per la bellissima visualizzazione di com'è importante il peso. E sfruttiamo i momenti apparentemente vuoti, il bar, la chiacchiera con gli amici, l'happy hour, il supermercato, perché parliamo molto della vita metropolitana. Chi vive in montagna, chi vive in certi luoghi è già più abituato a centrare il peso. I rischi del 12 centimetri sopra il cielo? È quello di abituarsi a portare il piede in una posizione innaturale. Io consiglio a chi ama camminare di andare ogni tanto nei negozi di runner, dei corridoi. Io sono affascinato dal mondo della corsa di lunga durata, sì? Perché ti insegna come deve essere il passo, la velocità di appoggio al suolo, è il mondo della danza. Se uno osserva uno che corre, se uno osserva uno che danza, scopre che il momento in cui noi ci appoggiamo al suolo è estremamente importante. Quindi riportare questa esperienza dentro. Noi non stiamo parlando in apparenza di medicina, invece stiamo parlando delle ragioni per cui noi staremo bene o stiamo bene o non stiamo bene. E questo è quello che veramente mi interessa, per cui sono qui oggi, per trasmettere questa visione che io ho, che Anna Maria, che ha Nicoletta, che vorrei che tutti riflettessero su dove mettono il peso con le scarpe. Anna Maria, occupati di me. Non so, saranno non sono 12 Ah, questi. Guarda, adesso ti chiedo di togliere le scarpe. Va bene, fai voilà, un tutto. Via, via la scarpa. Iniziamo così, via la scarpa. Il dottore ha parlato di danza. I miei primi 20 anni li ho passati a fare la ballerina classica sulle punte, per cui la visualizzazione dei piedi e il lavoro sui piedi è stata la cosa fondamentale per poter fare questa professione. E normalmente che cosa dobbiamo andare a pensare? Ce l'avete fatta a togliere le scarpe? Ok, perché? Perché se noi sensibilizziamo e ci abituiamo a capire quello che è la sensazione che dovremo poi ricreare mettendo le scarpe, cominciamo proprio a sentire le radici. Io le chiamo le radici piedi, perché un corpo senza radici è un corpo che non è in grado di sostenere poi tutto il peso di tutta la struttura fisica. Sarò velocissima. Abbiamo 5 dita dei piedi? Ok. Il primo dito viene chiamato la luce. L'avete? Provate a staccarlo dal suolo e a riappoggiarlo. Ok. Poi andiamo al mignolino, quinto. Invece di sollevarlo, allontanatelo, aprite, allontanate tutte le dita come se foste le dita che si aprono a ventaglio. E ci siamo. Difficile, eh? Dovrete lavorarci su un po'. Però dobbiamo pensare a un altro punto. Abbiamo sentito. Alluce un punto d'appoggio. Mignolino l'altro punto d'appoggio. Tiriamo una riga e abbiamo il metatarso. Ma dietro che cosa c'è? Il tallone. Sentiamo il tallone. Triangolo formato? Sì. Isoscele? Va bene? Perfetto. Abbiamo un bel triangolo. Adesso tutti e due i piedi sentiamo che hanno queste linee ben allineate. Potete farlo anche da seduti se non riuscite a stare in piedi. E qua andiamo a spostare i pesi del corpo, come diceva il dottore. Andiamo in avanti e sentiamo che quasi quasi la riga davanti si apre un po'. Perché? Perché il metatarso subisce il peso del corpo che si sposta. Ritorniamo nel centro e andiamo verso i talloni. Le dita si sono sollevate, non solo, probabilmente per chi è in piedi vedrete che si arricciano. Perché è l'effetto... Soprattutto non tanto adesso che andate in avanti, portate il peso in avanti, guardate come si arricciano, vi devono tenere l'equilibrio, è quello che succede dentro le scarpe. Ritornate nel centro e andate indietro sui talloni, trovate un punto centrale e abbiamo fatto la nostra sensibilizzazione del triangolo degli appoggi. Tanto tempo per farvelo sentire ancora. Bene, ma questa io adesso posso rimettermi le scarpe? Stai senza le scarpe, stai senza. Poi anche uno smalto rosso magnifico, fresco. Allora, adesso è arrivato il turno di sempre al volante, o possiamo dire spesso al volante. Noi ce l'abbiamo in linea, un amico che rientra, direi, in questo profilo, è Matteo Caccia, che non è sempre al volante, ma forse ma quando... Capita però. Ma capita, Matteo! Ciao vivo. Nicoletta, buongiorno, buongiorno ai tuoi ospiti. Senti, hai già fatto qualche esercizio? Ci stavi seguendo di Anna Maria? Sì, stavo seguendo, però mi sono perso a un certo punto. Cioè, dopo il mignolo ho perso un po' le indicazioni. Ma scusi, potrei chiedere ad Anna Maria, poi torniamo alla questione sempre in macchina, Nicoletta, quali sono i nomi delle altre cinque dita del piede? Forse l'ha già detta. Io me la ma sa, Matteo, che hanno proprio un nome. Io mi ricordo che ho fatto un corso, dottor Minola, lei se li ricorda, sa che ci sono i nomi proprio per le dita? Alluce, non me le illice, trillice, sì, pondulo, sì. E mellino, l'abbiamo già svelati in una precedente puntata dei nomi, ma Matteo l'ha fatto per farmi fare bella figura, era tutto fatto. Ci sono. Caffè pagato. Caffè pagato, dai, anche con un po' una briochina. Matteo, torniamo con te alla guida. Che cosa ti capita? Non ho mai capito se era il problema della macchina che avevo prima o quella che avevo prima ancora, che sui tratti lunghi, parlo di stare in macchina sopra l'ora, l'ora e mezza continuativa, sì. La posizione che sembra comoda sul sedile, di fatto a un certo punto comincia a crearmi una sofferenza nella parte bassa della schiena, su quello che poi ho scoperto essere, credo, correggetemi se sbaglio, il nervo sciatico, per cui sento come una piccola puntura che poi si trasmette lungo tutta la gamba. Dove porti il portafoglio, dottor Minola? Ha fatto una domanda giusta, ha fatto una domanda da douteur. Matteo, dove tieni? Il portafoglio lo tolgo perché mi dà molto fastidio, quindi quello non è. Allora, dottor Minola, il nostro caso e poi un esercizio veloce per Matteo e per gli ascoltatori che si riconoscono in lui. Osservarsi da fuori mentre si guida per capire se il problema nasce in un disagio nella postura delle spalle, in un sedile troppo basso, in un sedile troppo lungo. E nella cambio automatico, non cambio automatico. Nel cambio automatico c'è il vantaggio, si può tenere flessa la gamba sinistra, questo detende la colonna. Cambio invece manuale, le due gambe hanno una posizione vincolata, sicuramente molto più impegnativo. Controllo di velocità automatico o non, altro vantaggio. Quindi l'interdipendenza delle gambe toglie quel senso di blocco, di disagio nella guida, e ogni tanto, appunto, come lui citava, quando è superata l'ora, secondo me fermarsi, camminare, non avere l'ansia fermandosi negli autogrill di parcheggiare vicino, perché noi abbiamo bisogno di camminare e di ricambiare la postura, come dicevamo prima. Se porti una scarpa non devi essere vincolato a quella scarpa, la scarpa è in funzione tua. Facciamo in modo che noi ci riprendiamo le nostre abitudini per quello che vogliamo. Spesso uno nella guida è pronto ad arrivare, invece mentre fai il viaggio, sfrutta quel viaggio, fermati, e se hai un disagio concentrati, se la strada te lo consente, sulla respirazione. Possiamo fare rapidissimo prima dei mercati, perché anche Matteo, no, da noi arrivano i mercati, ma Matteo deve ripartire per raggiungerci. Possiamo fare un esercizietto veloce perché non vogliamo che abbia quel dolorino? Matteo, ma adesso è in macchina? Come? Adesso è in macchina, in auto? No, in questo momento sono a casa, però sono seduto. Seduto? Per cui, allora. Potrebbe essere. Allora, sarò brevissima. Una cosa importantissima, Matteo, è capire che bisogna dare spazio alle vertebre. Per cui la visualizzazione da dare è quella di crescere rispetto alla seduta di questo istante e soprattutto adesso si metta le mani ai fianchi. Ci siamo? Sì. Ci sono delle ossa, le ossa del bacino, quelle ai lati, ok? È importante sentire, si chiama bascula, ho bisogno che porti in avanti il bacino come portare il sedere in fuori. Mm-hmm, sì. Poi riporti tutta la schiena con quella posizione che le scatenerà un filino al male, perché stiamo schiacciando il disco intervertebrale, stiamo spostando un attimo una posizione. Adesso trovi la parte centrale, che vuol dire né col sedere in fuori né col sedere in dentro. Da quella posizione porti l'autoallungamento e i muscoli della pelvi, del bacino, li porti verso la colonna vertebrale a sostegno, come se fosse un bustino, e lasci libero il respiro. Sì, credo di aver capito più o meno. Ok, poi ci risentiamo. Grazie mille. Niente. Grazie a te, Matteo. E siamo tornati oggi, soluzioni semplici, semplici, quotidiane, atteggiamenti da imparare o da recuperare proprio nel quotidiano per stare meglio. Sembra banale, invece se provassimo proprio a riassettarci un po', tanti dolori potrebbero essere evitati, tante posture scorrette e anche tante relazioni. Ne parlavamo col dottor Minola, no? L'esempio di in ascensore stare appoggiati dietro, no? Ti permette di guardare la persona che hai davanti e magari di salutarlo, di fargli un sorriso. Esatto, ne hai un enorme beneficio, porti il peso indietro, sfrutti il fatto di stare. Questo succede sempre quando sei negli Stati Uniti, che il vicino ha voglia di parlarti, ed è una bella esperienza. Portiamola anche da noi questa abitudine, parliamo in ascensore. E a noi parliamo in ascensore. Noi invece dall'ascensore ci trasferiamo ancora sulla scrivania, perché vogliamo parlare dell'ultimo profilo. L'abbiamo chiamato tasto dipendente, telefonini, mouse e dintorni. La vita, lo sappiamo, è sempre più a portata di click, ma i dolori sono dietro l'angolo. I problemi sono tanti, abbiamo parlato, no, del dolore al braccio, il tunnel carpale, sarà colpa della scrivania. Questi sono i dolori, i problemi che solitamente noi pensiamo ci possa portare questo atteggiamento sbagliato nei confronti di tutti questi strumenti della tecnologia. Ma io vorrei parlare insieme al dottor Stefano Respizzi. Come poteva mancare? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno. Ciao Riccardo. Ciao Stefano. Abbiamo anche Anna Maria Cova. Bene, in linea bene, con noi. Maria, bene, così facciamo finta di essere in ascensore. Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas, dottor Respizzi, sì. Portatile, lo usiamo, vediamo sempre persone sempre che se lo portano naturalmente in giro, anche in treno per lavorare, ogni momento è buono, però dobbiamo usarlo un po' con la testa, quindi collocarlo per bene, perché per evitare che poi questa voglia di essere sempre connessi, che per alcuni è una necessità, ci porti a incriccarci un po', ingobbirci, infossarci. Assolutamente sì. Allora, intanto partirei dal concetto del portatile, cioè del trasportabile. Già questo può essere un bel problema. A me capita spesso di vedere in ambulatorio persone che segnalano dorsalgie o dolori alle spalle, eccetera. Facendo l'anamnesi salta fuori che questi hanno sempre appeso alla spalla 4-5 kg di computer, perché sì, per quanto portatili comunque sono pesanti. E si vedono queste persone che arrancano sui treni, negli aerei, tutti storti e ingobbiti perché hanno sta cosa sulle spalle. Io qui molto facilmente consiglierei il carrellino con le ruote, perché è tutta un'altra cosa naturalmente. Vi abbiamo tolto il borsello? Certo. Adesso ritornate sempre ma è meglio il carrellino del mercato, il carrellino del mercato con le ruote, così almeno si porta in giro senza massacrarsi la schiena. Naturalmente, essendo uno strumento portatile, dovrebbe essere utilizzato per tempi brevi. Purtroppo sì, questo invece non accade, ci sono persone che passano ore sul portatile. Allora il consiglio è di evitare assolutamente di, ad esempio, di tenerlo sulle gambe appoggiato sulle cosce, perché gioco forza si diventa ingobbiti per raggiungere la tastiera, che sembrerebbe così comodo, e invece no, perché questa posizione così ingobbita non può che sviluppare tensioni a livello dorsale. Inoltre le tastiere di questi strumenti sono piccole di solito e non sono molto ergonomiche, per cui se sappiamo che dobbiamo usarlo per tanto tempo, non so, siamo sul Milano-Roma in treno e dobbiamo usarlo per un paio d'ore, io consiglierei di utilizzare bene i tavolini del treno, appoggiarlo con comodo e eventualmente portarsi un mouse separato e una tastiera separata un po' più comoda. Ci sono questi optional. Perché il concetto del portatile è per utilizzo di pochi minuti. Se io so che devo usarlo per 2-3 ore, devo organizzarmi per crearmi la mia piccola postazione come quella che c'è in ufficio. Se tengo su 2 ore sulle cosce un portatile e ci lavoro sulla tastiera piccola, arrivo a destinazione sicuramente con mal di schiena. E quindi questo non è la cosa corretta da fare. Quindi non bisogna confondere gli strumenti. È uno strumento per un uso limitato nel tempo. Se proprio non ho la possibilità di avere un tavolinetto o cose del genere, posso ad esempio utilizzare la valigetta, sì, e perlomeno rialzarlo, quindi portarlo a un'altezza almeno sopra l'addome, per poter avere una più corretta postura della schiena senza questo atteggiamento ingobbito verso l'avanti e verso il monitor. Anche in questo caso il monitor è attaccato al notebook, non è staccabile, e quindi sono gioco forza costretto a guardare verso il basso, e quindi la cervicale viene flessa in avanti anch'essa. Quindi insomma, diciamo che se non ho una buona postazione di lavoro e devo usarlo per tanto, purtroppo non ho scampo, mi verrà mal di schiena e mal di collo. Quindi io consiglierei alle persone che usano questi strumenti intanto di utilizzarli il minimo indispensabile, perché non è sempre così indispensabile usarli. E spesso si vede gente in treno che gioca, che fa solitario, che fa quelle cose lì, si potrebbe evitare ad esempio, no? Se devono usarlo, magari di alzarsi spesso, di fare brevi periodi di lavoro e poi farsi un giretto avanti e indietro. E poi mai sulle ginocchia. Mai sulle ginocchia, mai così abbassato. Mai sulle... no, devo star gobbo per forza. Se le immagina Nicoletta come accade, io mi devo piegare due. E no, è perché... E vede. Dottor Respizzi, la ringrazio per essere stato con noi. Prego. Buona giornata. Salute a tutti. Grazie. Adesso abbiamo Fulvio, Marina, Veronica e Rosanna. Fulvio da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Lei chi è, scusi? Toro seduto, 12 centimetri sopra il cielo, penso di no. Tasto dipendente? No, cerco di non essere pigro, nel senso che non amo neanche, cioè sarei tendenzialmente pigro, ma la sera piuttosto che stare sul divano cerco di andare a fare 20 minuti di passeggiata, muovermi insomma, perché faccio già un lavoro seduto durante il giorno, per cui... Cerca di darsi una mossa, almeno esatto. La sera. Fulvio, che cosa ci racconta? Qual è il suo stile di benessere o qual è il suo problema, se vogliamo guardare l'altra faccia della medaglia? Sì, io ho da 4 anni delle fitte, un dolorino diciamo così, a tutte e due le ginocchia, centralmente spesso e lateralmente qualche volta. Ho fatto delle visite specialistiche, non mi hanno riscontrato assolutamente niente, se non tutte, insomma la diagnosi comune era di non correre, non posso correre, io sono uno di quei soggetti che non può correre, e forse di calare un pochettino di peso, però... Insomma, sono Fulvio, 90 kg volevo condividere insieme a Fulvio il dottor Minola ed Anna Maria. Questa, prima di entrare in diretta, il dottor Minola diceva: quando un paziente entra in studio è un po' frutto delle sue abitudini che ha imparato, ed è schiavo, diventa molte abitudini gli hanno proprio cambiato lo stile di vita. Il medico prende le informazioni che il paziente gli dà. E talvolta non bastano, proprio perché alcuni modi di stare e di essere sono talmente radicati che noi non ci accorgiamo neanche più di averle, e quindi l'ideale sarebbe cercare di, da parte del medico e da parte del paziente, di così scambiarsi informazioni preziose che dovrebbero portare poi il paziente a diventare, uso un po', medico di se stesso, o meglio leader di quell'equipe, perché vediamo che questi problemi sono affrontati sempre da più persone, da più figure professionali. Infatti non a caso oggi abbiamo il dottor Minola, che è un ortopedico, ma abbiamo anche Anna Maria Cova, che è un po' la regina del Pilates, no? Possiamo dire, oltre che fisioterapista. E poi c'è il posturologo, il nutrizionista e quindi così via. Sono bisogna, molte le figure. Adesso noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi torniamo indietro subito insieme per cercare proprio da questi pochi elementi di capire che cosa dobbiamo riferire al medico, quali sono i dettagli importanti, che come ci insegnava Anna Maria partono proprio da piccoli movimenti, dalla respirazione e dalla percezione del corpo. Allora, tanti dettagli, tanti aspetti che vanno considerati, perché noi portiamo avanti da sempre a essere benessere l'idea del benessere globale, che parte proprio anche da un'attenzione che noi dobbiamo avere nei confronti di noi stessi, che invece trascuriamo perché anche noi ci diamo per scontati. Siamo così, faccio così, ho un po' di chili in più, no? Corro ma non posso correre. Siamo diventati l'effetto delle nostre abitudini, e anche il medico poi nel suo ambulatorio rischia questo, perché le patologie, o meglio le condizioni di cui parliamo, nascono dal movimento, mentre la visita è statica. Alcuni semplici consigli: l'utilizzo della scarpa gommosa. La scarpa gommosa, la scarpa elastica, migliora la qualità del passo. La corsa all'inizio può essere una corsa intervallare, cioè una corsa alternata al passo. Basta scaricarsi in internet e ci sono un sacco di concetti sulla corsa, molti concetti sulla corsa intervallare. La scarpa meglio comprata in un negozio per runner, in un negozio che esclusivamente si occupa di selezionare scarpe adatte al tipo di postura del soggetto. Percepire meglio dove nasce, dove eventualmente nasce il problema, e portare possibilmente durante la visita quelle che sono le scarpe che abitualmente si utilizzano, per cercare di trasformare una visita che è statica in una visita che è dinamica, e cercare di capire, il medico può spiegare l'asse del ginocchio e capire dove vanno i carichi, visitare e guardare la tonicità del soggetto e ritornare poi e introdurre non solo attività ad alto impatto. C'è una macchina bellissima che si trova nelle palestre che si chiama ellittica, che è una macchina in alternanza gambe e braccia, che ricorda un po' lo sci da fondo, e che è una macchina a basso impatto che permette di distribuire meglio il carico sul corpo. Per allenarci, attività a basso, medio ad alto impatto, così distribuite si sta decisamente meglio. Andiamo a Marina da Roma. Buongiorno Marina. Marina. Marina è caduta, ma abbiamo Veronica al suo posto. Veronica, buongiorno. Abbiamo dei problemi con la linea. Devo dare la linea anche a Rosanna, ma se poi non c'è Rosanna, noi possiamo continuare con la nostra lezione di... Rosanna c'è? Chi c'è sì, di là? Sono. È Rosanna o Veronica o Marina? Non Rosanna capisco. Sono. Rosanna. Poi vicino, a Como. Sì. Rosanna, Tacchi, chi è lei? No, Tacchi nessuno, solamente scarpe. Si sente troppo male, Rosanna, io la richiamerei, che dite? Sì, Roberto mi fa segno di sì. Allora, Anna Maria, noi abbiamo detto, il problema è anche che noi dobbiamo imparare a toccarci, no? Prendere un po' di mestichezza anche con quelle parti del nostro corpo che sono dolenti. Penso al collo, che è rigido, penso al nostro amico di Treviso, ci raccontava questi dolorini di cui non riesce a venire a capo, alle ginocchia. Ecco, è un lavoro che tu insegni nei tuoi corsi e che è importante, perché apre poi, no, tutta una serie, certo, di nuovi approcci. Ci vuoi insegnare bene perché è importante che riusciamo a prendere, no, consapevolezza del nostro corpo e quindi a toccarlo? A toccarlo perché è importante, perché sulla pelle ci sono dei recettori che sono importantissimi per dare il segnale di quello che poi può essere in una fase successiva al movimento. Fulvio, un consiglio: cominci a toccarsele quelle ginocchia, cominci a prendere coscienza della rotula, al limite fissi un appuntamento con un fisioterapista che le dia la possibilità di sentire il corpo, perché poi lei ha detto non posso correre, ma può camminare. Infatti cammina, alla sera dice può non sto camminare, davanti alla TV. Può cominciare a valutare la scelta della scarpa, può cominciare a riprendere un approccio col corpo che non la faccia sentire malato, perché altrimenti si nega un qualche cosa che le faceva piacere nella vita, e quindi magari riprendere pian pianino, perché a volte quello che capita spesso in tutti quelli che sono gli ex sportivi o quelli che desiderano fare uno sport è la negazione: non posso fare più questo. Non è che non si possa fare più, si può cominciare, per cui cominciare soprattutto quando avete male, mettete le mani sul dolore, cominciate a dire mi tocco, non è una parte estranea a voi il corpo, voi e noi siamo il nostro corpo, e il contatto con il corpo è importantissimo per riuscire poi a gestirlo al meglio. Marina, È tornata. Buongiorno, buongiorno Marina, grazie. Ma ci eravamo perse, eccola. È vero. Buongiorno dottoressa Carboni, a lei e ai suoi ospiti, e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Dunque, io racchiudo un po' tutti i quattro tipi indicati, da toro seduto ai 12 centimetri sopra il cielo, anche se non frequentemente. Ho una vita abbastanza sedentaria per ragioni di lavoro e zero sport. Nella primavera mi è accaduto di avere una sofferenza, un dolore acuto al tratto lombosacrale della colonna, tanto da così improvviso, addirittura risveglio, da non potermi muovere nel letto e dover essere aiutata addirittura a scendere, quindi essere aiutata a girarmi, qualcuno mi prendesse le gambe, e un dolore che si radiava alle gambe. Ho superato con gli antinfiammatori, purtroppo trascurando un po', ho preso contatti con uno specialista, mi ha dato indicazione di fare un RM che non ho fatto. Adesso, quindi questo è accaduto 2 o 3 volte, adesso 2 giorni fa, nel chinarmi per raccogliere un documento che mi era caduto, tac, sono rimasta bloccata. È un classico, Marina, guardi. Ah, povera me. Allora, un caso abbastanza comune, vero, dottor Minola? E noi abbiamo, non posso assolutamente sforare, abbiamo 1 minuto e mezzo che io vorrei distribuire tra il dottor Minola e Anna Maria Cova. Ce la facciamo? Via! È una storia già scritta. Gestione del dolore, subito con antinfiammatori, gestione della parte meccanica con un corsetto, un brace, come dicono gli americani, che ti dà un temporaneo sostegno e un sollievo, e cominciare, appena si è risolta la fase acuta, l'accertamento già consigliato in risonanza, e poi la gestione dello stile di vita. A chi affidiamo ad Anna Maria? Anna Maria. Marina, è difficile in un minuto raccontare tutto, ma tu ce la fai perché sei brava. La cosa importante, Marina, è la diagnosi. Ricordare sempre che attraverso la diagnosi poi il team che la seguirà riuscirà a darle il meglio. Che posso dire immediatamente è dare spazio alle vertebre, cresca e vada a non assumere delle posizioni fasulle. E il concetto importante è la posizione neutra del bacino, per intenderci una posizione che permetta alle vertebre di riallinearsi. Non vuol dire appiattire la curva lombare, vuol dire rispettarla, per cui c'è proprio bisogno di prendere spazio. Comincia a prendere spazio tra le vertebre e come poi se avanti. Noi provassimo a toccare il cielo con la testa? Non solo le radici, ricordiamocele, se no saliamo solo da una parte, anche allora, i piedi radicati. Piedi a terra, testa tra le nuvole. Va quasi bene, questo ci piace. E noi vi salutiamo, grazie ad Anna Maria Cova, al dottor Minola, grazie a voi che mi avete seguito. Se volete c'è sempre il nostro profilo Facebook. Vi aspetto domani come sempre. Un bacio, non posso baciare, un saluto da Nicoletta Carbone.